Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete o quantomeno provarci. Vi ricordo, come sempre, i nostri contatti, votaantonio@radio24.it è la email, votaantonioR24 è l'account Twitter, così come ha questo stesso nome la pagina Facebook. Se volete trovare me, sono anche su Twitter, Simone Spezia. Questa settimana ci occuperemo, dopo il consueto punto di Stefano Folli, di due vicende: una querela arrivata da un politico, da un quasi politico, ad un giornalista per una frase scritta su Twitter, anche delle implicazioni legali, niente male la vicenda, di un manifesto per la trasparenza della politica in rete, che però suscita qualche dubbio e qualche dibattito. Iniziamo con qualche notizia, come sempre. È la settimana delle agende, agendamonti.it è il sito che ha scelto il Presidente del Consiglio per lanciarsi nella campagna elettorale. Arrivato e archiviato l'account Twitter del senatore Monti, iniziamo da questo lato. Innanzitutto c'è un nuovo sito che si chiama Per Agenda Monti, realizzato da Italia Futura, che promette di essere una piattaforma più partecipativa, strutturata anche per accogliere o valutare proposte. Esperimento interessante da tenere sott'occhio. Ancora, si è molto discusso del documento che il governo ha messo sul proprio sito, un documento nel quale si tracciava l'attività dell'esecutivo, ma anche alcune linee guida per il futuro, tra cui la riduzione delle imposte di un punto percentuale. Molte polemiche su questo, perché è apparsa chiaramente come una mossa da campagna elettorale. Da mercoledì il documento è stato rimosso chissà perché. E questo è stupendo, è chiaramente un gioco, insomma, qualcuno che sta giocando e che si sta divertendo. È arrivata una mail a molti giornalisti nelle settimane scorse, la segnalazione l'abbiamo presa su Twitter da Pietro Salvatori, la mail dell'arrivo del partito della lotteria, anche un sito, vi prego andatelo a visitare perché è meraviglioso. Questo è il video. Sei candidato, non ci hai sperato, sei stato estratto, ti hanno votato. Dillo alla mamma, dillo alla zia, vota anche tu il partito lotteria. End of corner. Guarda la tua sedia, domani è una poltrona, cancella la tua ira, la ruota adesso gira. Parliamo di milioni, per giovani e vecchioni, la davendata scegli ed ecco i vincitori. Vota anche tu, vota anche tu, vota il partito lotteria. Settimana molto intensa, come sentivate già dalle notizie in breve, non solo dal lato dei social media, ma anche dal lato della televisione e dal lato di questa campagna elettorale che è sostanzialmente già entrata nel vivo. Il punto di Stefano Folli. E quindi, come ogni settimana, eccoci qua. Stefano, buongiorno. E là, Simone, ciao, eccoci qua. Inizierei da questo Mario Monti in versione aggressiva, se sei d'accordo, insomma, con questa idea di silenziare le ali estreme che tanto scandalo ha suscitato, e anche quella frase su Brunetta, che insomma non so se quando ha parlato di statura accademica volesse riferirsi anche alla statura fisica di Brunetta. Certo, il sospetto era forte, insomma. Ma insomma, Monti ha deciso di giocarsi la partita politica e se la gioca mettendo in campo tutte le armi, no? Come si dice, in guerra e in amore tutto è lecito, ecco, anche in politica tutto sommato è tutto è lecito, si può dire. E io credo che da un lato questo sia positivo, perché non si può pensare che ci sia due poli che si scannano, no? Centrosinistra e centrodestra, e poi un terzo polo, diciamo, il leader di un cosiddetto terzo polo, che invece resta lì un po' ingessato e parla soltanto di sommi sistemi. E quindi da un lato questo è positivo, assicura una campagna che sarà certamente molto brillante, molto dura, come in fondo le campagne elettorali devono essere. Dall'altra parte, insomma, la polemica politica bisogna anche saperla fare, bisogna anche evitare appunto quello che tu hai notato prima, cioè che ci siano delle espressioni che possono essere considerate delle gaffe. Quindi va bene la durezza, l'asprezza polemica, ma bisogna anche saperlo fare. Qui Monti dimostra che deve ancora imparare qualcosa, ma insomma comunque abbiamo ancora quasi 2 mesi di tempo, avremo modo di divertirci, fra virgolette. Su questo sicuramente, anche perché in genere l'ironia del professore è piuttosto tagliente, insomma, quindi... è tagliente ed è efficace, ma fino adesso è quel tipo di ironia che va bene nelle aule universitarie, nei seminari, diciamo in circoli un po' ristretti. Adesso diventa un'ironia che deve essere efficace anche a livello mediatico, quindi questo credo che abbia bisogno Monti di mettere a punto alcuni aspetti di questa sua strategia comunicativa. Per il momento inchiodato al 12%, comunque, anche se il professor Dalimonte parla di un gradimento intorno al 23% e qualcosa, in realtà dal punto di vista dei sondaggi, come pure intenzioni di voto, siamo inchiodati là, eh. Ma guarda, qui bisogna intendersi, questa formazione sta nascendo adesso, molte viti devono essere strette, molti bulloni devono essere registrati in questo terzo polo. Come dice Dalimonte, però, il bacino è molto ampio, il bacino che è interessato e che potrebbe, diciamo, orientarsi a votare per Monti è molto ampio. Spetterà al Presidente del Consiglio e ai suoi alleati dimostrare che loro sono la novità, che loro non sono soltanto, diciamo, coloro che hanno garantito i conti pubblici anche a prezzo di una drammatica e forte austerità, ma sono anche coloro che possono interpretare, come è giusto che sia, come è doveroso che sia, anche un progetto di crescita economica. Ti porto, Stefano, al campo che forse potrebbe subire maggiormente la concorrenza di questa lista di centro, insomma, di questo cosiddetto terzo polo, che è probabilmente il centrodestra, ancora naturalmente dominato da Silvio Berlusconi, che adesso addirittura si propone di fare il ministro pur di portare a casa l'accordo con la Lega. Sì, Berlusconi le pensa tutte, ma non riesce a nascondere la sua debolezza. Il problema è, non è promettere di fare il ministro, il problema è che esiste una legge elettorale. Questa legge dice che una coalizione indica il candidato premier. Se Berlusconi dice alla Lega, come sta dicendo in sostanza, non vi preoccupate che io sono il candidato premier dal punto di vista formale, lo sono, però io vi prometto che poi non faccio il premier, faccio anche il ministro. Non basta, io credo, alla Lega questo, e non è neanche serio rispetto davanti all'elettorato, perché se la legge prescrive che ci sia un candidato premier e un gruppo dirigente che dopo le elezioni andrà dal Presidente della Repubblica e farà quel nome per guidare il paese, Berlusconi, se vuole salvare l'accordo con la Lega, ha soltanto una strada, diciamo, coerente e seria: nominare un altro candidato premier, scegliere un altro personaggio che interpreti questo ruolo. Lui può mantenersi come capo politico della coalizione, nessuno glielo potrà contestare, come capo politico del centrodestra, ma il nome del candidato premier, se c'è un po' di schiettezza e di correttezza verso l'elettorato, deve essere un altro, se questa è la richiesta della Lega, come sembra che sia. È difficile che Berlusconi riesca a schivare questo ostacolo facendo dei contorsionismi. Chiaramente, forse alla fine le primarie gli avrebbero fatto un gran bene a questo PDL. Penso anch'io, al centrodestra l'avrebbe fatto molto bene le primarie. Veniamo invece al Partito Democratico, a proposito di primarie, perché il Partito Democratico le ha celebrate, ha celebrato quelle per i parlamentari giusto la settimana scorsa, portando naturalmente molta meno gente alle urne, ma anche, come era prevedibile probabilmente, rispetto alle primarie per il candidato premier, primarie dalle quali esce un quadro interessante dal lato dei futuri possibili deputati, ma anche un quadro che potrebbe spostare un po' a sinistra l'asse del partito, perché i cosiddetti giovani turchi, così vengono chiamati, insomma, l'asse più di sinistra del partito composto da giovani, c'è dentro Orfini, c'è dentro anche lo stesso Fassina, responsabile economico del partito, insomma, sono usciti vincitori, e anche vincitori a questo punto con un consenso popolare, il consenso popolare delle primarie. Questo può rappresentare un ulteriore problema, ed è questo che Bersani sta cercando di riequilibrare con le candidature annunciate in questi giorni, ultima quella di Della Ringa, il professor Della Ringa. Sì, ma non c'è dubbio che Bersani sia preoccupato anche di questo, ma io direi, oltre alla candidatura di Della Ringa, che è un autorevole studioso di problemi del lavoro, c'è anche l'incontro con Renzi, e chiaramente questo incontro con il suo ex avversario è volto a riequilibrare al centro il Partito Democratico e a non lasciare troppo spazio a Monti. Monti insiste molto sulla questione, no, che c'è una contraddizione nel Partito Democratico, che c'è un peso eccessivo della sinistra che lui identifica in Fassina, ma poi fa riferimento anche all'accordo con Vendola, fa riferimento diretto o indiretto al peso della CGIL sul Partito Democratico. Beh, tutto questo è un problema che non si può superare soltanto con la bonomia di Bersani. Si supera con delle proposte chiare, parlando chiaro all'elettorato e riconoscendo che una forza di governo di centrosinistra, in una situazione economicamente difficile come quella in cui siamo, va al governo se riesce a rappresentare le istanze, diciamo, sociali, ma anche tenendo presente quali sono i vincoli europei del paese, quindi anche, diciamo, con delle belle iniezioni di realismo. Guarda quello che sta succedendo in Francia, dove Hollande è stato sconfitto sulla questione della supertassa per i ricchi, no? Il 75%, vuol dire qualche cosa. Le promesse elettorali non possono superare una certa soglia di demagogia. Questo è un problema che riguarda la sinistra e anche la destra, naturalmente. Bersani, che è un uomo di buon senso, di grande buon senso, si rende conto di questo e cerca di tenere insieme una coalizione in cui le istanze di sinistra si devono necessariamente conciliare con le istanze di centro, ben sapendo che Monti gli fa concorrenza proprio su quest'ultimo versante. Dal lato della pura strategia elettorale, della strategia almeno di questa settimana, di questo ultimo paio di settimane di campagna elettorale, Stefano, io ho avuto un'impressione, poi mi dici tu se la vedi nello stesso modo oppure no, che con questo forte agitarsi, se così possiamo dire, dell'attuale presidente del Consiglio Mario Monti e dell'ex Silvio Berlusconi in TV, altro problema, la questione della par condicio, ma non ci entriamo, per carità, perché esce fuori ogni anno, non ne possiamo, veramente non ne possiamo più. Bersani sia apparso come il più presidenziale di tutti, almeno in questa settimana. Vabbè, adesso questo vediamo, perché siamo appena all'inizio. No, quello che si può dire, questo hai un po' di ragione, che la campagna in questo momento vede come protagonista Monti, che si è messo al centro in tutti i sensi, anche nelle polemiche. E poi Berlusconi, perché Berlusconi è uomo da campagna elettorale, quindi fa molto fracasso. Ecco, quindi questi due personaggi in questo momento sono quelli che attirano i riflettori. Bersani, anche un po' per il suo stile, per il suo modo di essere, esita a entrare a piedi, come si dice, a gamba tesa, no? Però la campagna è lunga, siamo soltanto agli inizi, adesso dovranno essere presentate le liste, prima dovranno essere presentati, insomma, i simboli, eccetera, eccetera. Insomma, credo ci sia ancora molta carne da mettere al fuoco. E poi ci sono le altre due incognite, ne parliamo non solo per la maledetta par condicio, ma perché, insomma, sono effettivamente due incognite al momento, come forse tutto è un'incognita in questa fase, che sono da una parte Grillo, che in realtà sembra nettamente in calo nei sondaggi, gli ultimi lo danno intorno all'11%, e parallelo a questo, Ingroia, che sembra aver voluto creare una sorta di sinistra arcobaleno ex novo, perché insomma sono tutti dentro là, Di Liberto, Ferrero. Guarda, io penso che ci sia circa un 20% più o meno di voto che si può definire antisistema, e che si divide tra Grillo, che l'ha egemonizzato fino adesso, e quest'altra lista che fa riferimento a Ingroia e che è effettivamente apparentemente molto incoerente, però rappresenta anch'essa un malessere, un fastidio verso il sistema, no? una sorta di rivolta. Ingroia mi pare che auspichi una rivoluzione, anche se sì, lui dice non violenta. Grillo ha avuto un'autostrada spianata fino a oggi, e ha lucrato politicamente, intendo dire, sulla grande crisi del sistema dei partiti nell'anno del governo tecnico. Adesso naturalmente i partiti si stanno in qualche modo riassestando per fare la campagna elettorale, nascono dei concorrenti in quest'area antisistema e quindi anche Grillo adesso paga qualche prezzo, però secondo me lui ha anche la capacità di stare sulla scena e di inventarsi qualche cosa. Aspettiamo a darlo per morto. Campagna elettorale dunque ancora agli inizi e ne vedremo tante. Grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Stefano, buona giornata. Grazie, grazie a te Simone, a presto. E dunque, dopo il punto con Stefano Folli, ci ritroviamo per parlare di un caso che sfiora anche la politica e che riguarda più in generale il diritto digitale, e al quale però bisogna fare attenzione, perché andiamo verso una campagna elettorale che si giocherà inevitabilmente anche sui social. Ve l'abbiamo raccontato poco fa nella introduzione, parlando dell'account Twitter del Presidente del Consiglio Mario Monti, una campagna appunto che si giocherà sempre di più anche sulla rete, e quindi ci sono una serie di cose alle quali fare attenzione. Parliamo di un caso, di una querela, o meglio di un annuncio di una querela ad un giornalista per un tweet, e partiamo da questo audio. Per il signor Gianniotto io sarei un lottizzato, sapete perché? Perché qualche giorno fa sono stato contattato da una pubblica amministrazione che deve liquidare una coop. Tutti noi qualche tempo fa abbiamo vinto in maniera splendida un referendum. La voce che sentiamo è quella dell'avvocato Michele Giarrusso. È un avvocato, è un esponente, un attivista, non sappiamo mai come chiamarli, del Movimento 5 Stelle, che, come avete sentito, anche il giornalista coinvolto è Gianni Riotta, ha deciso di querelarlo per un tweet, o almeno ha annunciato che lo querelerà per un tweet. Saluto appunto Gianni Riotta, editorialista della Stampa, giornalista, insomma lo conoscete tutti, molto attivo sui social network. Gianni, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, che cosa è successo? Che cosa hai twittato che ha portato a questo annuncio di querela? Ma è successo che l'avvocato Giarrusso, che io non conosco e per il quale ho, diciamo, preventivamente stima e simpatia, ha accettato incautamente due posizioni che sono tra loro il conflitto di interessi, cioè fare il capolista del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo al Senato alle prossime elezioni di febbraio, e poi di agire come liquidatore di una pubblica agenzia, e quindi Repubblica Palermo ne ha dato notizia a firma del giornalista Carmelo Caruso nei giorni tra Natale e Capodanno. A me è sembrata una notizia, diciamo, questo conflitto di interessi tra un candidato e un liquidatore. L'ho segnalato, la rete se n'è accorta e ne ha preso, e stamattina lo stesso Caruso sulla stessa Repubblica Palermo dà notizia che l'avvocato, e gliene rendo merito, si è dimesso, riconoscendo quindi così urbi e torbi e conflitto di interessi di cui si era reso protagonista. Gianni, la parola incriminata è lottizzato, mi sembra di capire, no? Nel tuo tweet hai parlato... No, non è incriminata perché... Cioè incriminata secondo Giarrusso. No, perché hai anche grazie a Dio, diciamo, ancora nell'intervista all'amico Gian Antonio Stella su Set del Corriere della Sera, Grillo dice: quando prenderemo la maggioranza processeremo tutti in piazza e li condanneremo, e ci sarebbe aspettata la replica, cioè come? La condanna è implicita del processo, quindi vedremo. Non so se per fortuna ancora le condanne non sono implicite del processo. Guarda, io non so perché nel sito di Beppe Grillo io sono indicato come lottizzato milioni di volte, quindi io non so se lottizzato è un insulto o non è un insulto. Diciamo che nel gergo giornalistico corrente dagli anni 1060 in Italia, quando un politico viene indicato a occupare una posizione pubblica mentre è candidato, è un lottizzato. Ma ripeto, non c'è nessun astio, anzi sono pronto a offrire un caffè all'avvocato Giarrusso, perché riconosco che dietro le sue dimissioni e l'ammissione di colpa, diciamo, ci deve essere una persona onesta. Passiamo ad Ernesto Belisario, avvocato, esperto di diritto digitale. Gianni, ti chiedo di rimanere con noi nel frattempo. Lo trovate anche su Twitter, è diritto 2.0, sia col 2 che con lo 0 scritti a numero. Insomma, qualche complicazione per trovarlo, però insomma, in qualche modo lo troverete. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Un quadro dal punto di vista legale, perché come si diceva, ci si avvia ad una campagna elettorale che da questo punto di vista può generare qualche rischio. Praticamente tutti i giornalisti sono su Twitter, non solo, ma insomma, ci sono molti utenti su Twitter, su Facebook, sui social network, e a volte tutto questo viene preso con leggerezza, anche l'insulto verso il politico, insomma in questo caso non è un insulto, ma anche l'insulto verso il politico viene preso con leggerezza. In realtà bisogna starci molto attenti. Sì, bisogna stare molto attenti anche per la natura stessa del social media, di Twitter in particolare, perché è caratteristica di Twitter la velocità, tanto nella sintesi dei 140 caratteri, tanto alcune volte da parte degli utenti e degli operatori dell'informazione anche nella velocità di essere i primi a twittare, a postare qualcosa, che sia un link, che sia riprendere la segnalazione o il tweet di qualcun altro. E ahimè, spesso in questa fretta, non si pone la giusta ponderazione sul contenuto del messaggio che di fatto noi stiamo trasferendo a tutti i nostri follower. Quindi diciamo che nel caso di giornalisti o comunque di persone che hanno un ben determinato seguito, ma anche di uomini politici, stiamo parlando di un messaggio che può avere un'amplificazione notevole. E quindi non v'è dubbio, ma questo può essere quasi superfluo sottolineare, che anche attraverso Twitter è possibile diffamare, cioè ledere l'altrui onore o reputazione. E questo lo possiamo fare anche riportando delle affermazioni che noi non condividiamo. Quindi si apre tutto un discorso sul retweet, se ne è parlato molto, anche se è quello di cui si è parlato in questi giorni non è un retweet. Ernesto, interrompo solamente per dire ai nostri ascoltatori, che insomma in genere quelli che ci seguono fanno uso dei social media, dei social network, detto ciò lo chiariamo per loro, il retweet è di fatto il rilanciare quello che è stato scritto da qualcun altro senza alcun commento, insomma, in sostanza. Prego. Sì, diciamo che possiamo distinguere due tipi di retweet: il retweet cosiddetto naked, cioè nudo e crudo, in cui io di fatto posto il messaggio senza nessun tipo di aggiunta, se vogliamo dire così acriticamente, oppure io posso aggiungere, su Twitter li vedete con la scritta RT preceduta dal nome utente che noi stiamo retweetando, e possiamo aggiungerci un più uno, un sono d'accordo, un mi dissocio, un secondo me questo è molto grave, e che accompagna ed aiuta ai nostri follower a capire perché noi citiamo. Questa versione probabilmente era preferibile in realtà. Sì, questa versione è la preferibile perché consente di capire e consente anche eventualmente di segnalare una notizia prendendo magari le distanze da quelli che sono i contenuti, che può essere assolutamente importante. Io mi rendo conto, ne abbiamo discusso molto in questi giorni sulla rete, c'è chi dice ma io alcune volte retweeto pur di dare una notizia anche delle cose che non condivido, però mi devo assolutamente rendermi conto che sto facendo in quel momento da amplificatore di un messaggio, e quindi ragionando anche in termini di in Inghilterra c'è stato il caso di un tizio che è stato definito pedofilo, e l'avvocato che rappresentava questo signore, che poi è stato prosciolto da ogni accusa, ha addirittura minacciato tutti quelli che lo avevano twittato il nome di questa persona accompagnato dall'aggettivo pedofilo, ha minacciato tutti di essere. Chiarissimo, Ernesto. Io voglio ricoinvolgere Gianni Riotta per il punto di vista del giornalista da questo lato. Ora, perché è quello che io capisco. Ringrazio molto l'avvocato per le cose che ha detto, e per tutti quelli che l'ascoltano ne stiano con grande attenzione. Grande calma prima di twittare e ritwittare, perché Twitter è, come tutti i mezzi di comunicazione, è molto complicato e quindi giusto. Io, caro avvocato, essendo diciamo un anziano del mestiere, essendo diciamo credo di aver aggiunto adesso il record, perché sono stato querelato per carta stampata, settimanali, televisione, radio, adesso anche New Media, e alla mia tarda età sono sempre stato assolto. Quindi si figuri se poi sono colpevole di, come dire, twittazio precox, se possiamo dirla così, se non Simone male. Ce la passa, twittazio precox. Io ho letto un articolo e ho fatto dei controlli, e la prova, diciamo, che l'articolo dell'amico Caruso su un quotidiano poi importante come Repubblica, tra parentesi una redazione locale diretta da una grande firma come Sebastiano Messina, e la prova che le cose stavano come dicevamo noi sta proprio nelle dimissioni dell'avvocato Giarrusso, che se non avesse avuto alcun conflitto di interessi si sarebbe ovviamente ben guardato da lasciare. Ma d'altra parte, questo, io capisco che chi è di parte, ma per chi non è di parte, che è un candidato a elezioni delicatissime in una regione delicatissima come la Sicilia, presieda un ente liquidatore, quindi con un grande potere di far favori o di non farli, di distribuire aiuti o non distribuirli, di mandare avanti una pratica o di rallentarla, suscita un conflitto di interessi. Io sono certo che l'avvocato l'avrebbe svolto con totale imparzialità e con totale equanimità, però il conflitto di interessi è come la moglie di Cesare, cioè si deve mettere al di sopra delle parti. Quello che è poi, fin qui parliamo di diritto e di deontologia giornalistica. Perché io quello che ti volevo, cui ti volevo, è il dubbio del giornalista, perché io mi trovo sotto magari una dichiarazione di un politico importante che è potenzialmente diffamatoria per un altro politico, resistere al retweet è difficile, ecco. Allora, ma guarda, questo non è difficile, perché le regole che seguono la stampa, la televisione, la radio, vanno sempre nei nuovi media. Io dico sempre new media, old values, i media sono nuovi, i valori sono vecchi. C'è però un punto politico, che è il punto politico di tutta questa storia, se no poi ci perdiamo dietro, diciamo, la norma giuridica che giustamente l'avvocato ci ha ricordato con estrema lucidità, ed è che la contraddizione è che il movimento di Grillo, che è nato sulla democrazia digitale, e vi prego di guardare, avvocato, vada a guardare nel blog di Grillo come loro trattano i loro avversari, cioè, ma la diffamazione dovrebbe arrivare alla buon costume, e i loro avversari sono vermi, puttane, non voglio dire quello che sono perché siamo alla radio. Allora fa specie che chi è così persuaso della democrazia digitale poi si inalberi davanti a una notizia. Ma anche lì, caro Simone, il brutto di essere vecchi del mestiere è che noi abbiamo visto tantissimi ribelli della politica arrivare alle soglie del potere e diventare più parrucconi di quelli che ci stavano prima. Non è che Grillo è primo, è l'ultimo, diciamo. Tra l'altro, Gianni, in tutta teoria tu potresti usufruire di un servizio gratuito contro la querela per diffamazione ai blogger, che è stato messo a disposizione proprio da Grillo, se non sbaglio. Quindi non... Guarda, mi metterò sicuramente nelle mani del boia, come si diceva nei processi stalinisti, mi rimetto alla clemenza della corte. Ed è ovvio, lo dico davanti all'avvocato, era una battuta, perché non vorrei che poi dicessi ci ha dato dello stalinista, è uno scherzo, una battuta. Ho l'avvocato Malavenda, che anche se stavolta, diciamo, non ho dietro nessun grande giornale, quindi devo dire che mi diverte l'idea di essere denunciato insieme a un giornalista precario di 27 anni come Carmelo Caruso, io alla mia età veneranda, e tutte e due senza avvocato pagato da una organizzazione di media, è fantastico, ci fa sentire veramente giovani. Grazie a Gianni Riotta. Simone, visto che hai ricordato il tweet dell'avvocato, per par condicio, visto che oggi la GCOM e il presidente Zavoli ci hanno ricordato la par condicio, ricorda anche il mio, chiocciola Riotta. Io ti ah sì, perdonami, perdonami, ma insomma io penso francamente che qua, insomma, chi ascolta questa trasmissione e chi sta sui social, insomma, ti conosca bene, naturalmente. Chiocciola Riotta su Twitter, naturalmente. Grazie a Gianni. Grazie Riotta, a te, l'avvocato. Buona giornata. Grazie Ernesto Belisario, buona giornata. Buona giornata Ernesto. Naturalmente abbiamo sentito, insomma, abbiamo fatto questo quadro anche per dare qualche indicazione di massima a chi si approcciasse alla politica sui social network, anche come semplice utente, non solo come giornalista. Dall'altro lato abbiamo cercato l'avvocato Giarrusso, non siamo riusciti a trovarlo, a volte capita, insomma, anche a noi giornalisti. Siamo a disposizione, insomma, se voleste replicare, è perfettamente normale. Ed eccoci di nuovo. Quello di cui parliamo adesso, come dicevamo già prima della pausa, è questo manifesto per la democrazia 2.0. Secondo me necessiterà di qualche critica, ma anche di questo parleremo. Ci sono alcuni elementi, secondo me, di dibattito interessante, quantomeno di dibattito interessante. Pubblicare online l'elenco di tutte le candidature, offrendo a tutti i candidati una piattaforma web attraverso la quale aprirsi al dialogo e al confronto con i cittadini. Dare pubblicità a tutte le riunioni politiche di vertice in live streaming e successiva archiviazione online. Garantire che tutti i candidati si impegnino seletti a consultarsi costantemente con i propri elettori, rispondendo a interrogazioni pubbliche in live chat. Impegnarsi nella prossima legislatura perché l'accesso a internet diventi un diritto fondamentale del cittadino e altre cose. È in realtà un decalogo. Ne parliamo con uno dei firmatari, che è Stefano Epifani. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. E con Massimo Mantellini, blogger, che sul post, perché ha un blog anche sul Post, oltre che in una serie di altri luoghi, ha scritto un post appunto piuttosto critico su questo manifesto, almeno in alcune delle sue parti. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Stefano Epifani, iniziamo da te. Come nasce questo manifesto? Ma questo manifesto nasce dall'esigenza di prendere posizione su alcune tendenze che vediamo che in questi giorni si stanno sviluppando nell'ambito di quella che sarà una campagna elettorale abbastanza difficile e probabilmente molto dura per toni e modalità, al che abbiamo ritenuto utile e opportuno in qualche modo sottoscrivere non tanto un manifesto quanto una manifestazione di intenti alla quale ci piacerebbe che aderissero coloro i quali parteciperanno a questa campagna elettorale, cosa che peraltro è stata già fatta da alcuni schieramenti e che speriamo, voglio dire, sia semplicemente il punto di partenza dell'adesione anche di altri attori. Nasce quindi dall'esigenza di puntualizzare alcune cose che riteniamo siano importanti, siano fondamentali. Tra queste alcune le abbiamo dette, altre sono l'impegno perché la rete sia davvero neutrale, sia vietato ai fornitori di servizi di comunicazione ogni genere di attività di network management suscettibile di incidere sulla libertà degli utenti, di impegnarsi perché tutti i dati e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione siano disponibili online, i tribunali devono rendere accessibili ai cittadini online e gratuitamente i testi integrali di tutte le proprie decisioni, insomma c'è veramente tantissima roba. Massimo Mantellini, su cosa si appuntano principalmente dei punti di questo manifesto le tue critiche? Aggiungo che non sono propriamente neutrale in questo caso perché ho molte perplessità anch'io, soprattutto sui punti 2 e 3, cioè la pubblicità in live streaming di tutte le riunioni politiche e l'impegno dei candidati a consultarsi settimanalmente in live chat. Prego Massimo. Ma no, adesso senza volere fare bastian contrario a tutti i costi, mi sembra che il tono generale di alcuni dei punti più importanti di questo decalogo sia un tono mutuato un po' da una idea di democrazia elettronica che è poi abbastanza simile a quella portata avanti da Grillo o dal Partito Pirata, comunque da tutti coloro i quali negli ultimi anni si sono un po' posti il problema di come coniugare la rete e la politica. E da questo punto di vista io ho idee abbastanza differenti, nel senso che esattamente i punti che citavi poco fa a me sembrano tutto sommato che siano un richiamo a questa situazione nella quale noi siamo particolarmente assatanati nei confronti di una politica che ci ha deluso in maniera molto forte, ed è come se cercassimo attraverso la rete di trovare una sorta di differente strada, differente controllo. Secondo me non è questa la direzione. Il fatto di fare una sorta di democrazia diretta, vale a dire il cittadino che costantemente, continuamente controlla l'operato delle persone che ha eletto, secondo me è semplicemente un'idea sbagliata. Secondo te, come, diversamente da come viene indicato in questo manifesto, come può essere sfruttata la rete per riavvicinare la politica a noi, per riavvicinarci alla politica? Io credo che noi, finché viviamo in una democrazia rappresentativa come questa, abbiamo, diciamo, l'unico strumento è quello di mandare in Parlamento persone che abbiano competenze e punti di vista simili ai nostri. Questo la grande distanza fra tutte le istanze di rete che sono anni ormai che continuiamo a ripetere e poi quello che succede nelle aule del Parlamento dipende in gran parte da questo. La grande maggioranza degli eletti in Parlamento sono persone che hanno scarso interesse ai temi che invece a noi sembrano importanti. Quindi secondo me il passo è questo, molti dei temi citati dal Decalogo sono importanti, la neutralità, gli open data, tutto quello che volete, ma passano attraverso la mediazione di una figura che è una figura fiduciaria che noi mandiamo in Parlamento. Dobbiamo semplicemente trovare persone che abbiano queste caratteristiche. Stefano Epifani, in particolare sul punto 3, l'impegno a una costante consultazione con i cittadini e con gli elettori in una live chat, suona come consultazione, però anche l'aria un po' di ti tolgo la delega, insomma passo alla democrazia diretta un pochino, o no? Sì, dunque io premetto che non ho sentito nulla di quello che ha detto Massimo, però più o meno ho idea di quelle che sono le osservazioni che ha fatto sul suo post. Ecco, spesso si confonde la democrazia diretta con il dovere del rappresentante di riferire rispetto al suo operato. Ora, nessuno pensa per il momento che si debba passare a una democrazia diretta, semplicemente c'è un adeguamento di quelli che sono gli strumenti al nuovo contesto. Nessuno penso si sarebbe meravigliato se avessimo detto che in un paese di 5.000 anime il politico settimanalmente si dovesse incontrare al bar con i suoi elettori e riferire su quello che stava facendo, o dovesse farlo in assemblee pubbliche come spesso succede. Ora, traslare questo meccanismo oggi su internet vuol dire che il candidato che ha intenzione di candidarsi a una carica nazionale, in questo caso, non vedo per quale motivo non debba rendere conto senza questo perdere, come dire, legittimità di mandato rispetto al suo operato, ma semplicemente rendendo conto, capendo quello che sono le volontà dei cittadini ed eventualmente prendendosi la responsabilità di scegliere diversamente nell'ambito della delega di mandato. Questo non vuol dire democrazia diretta, vuol dire semplicemente rendicontazione dell'attività. Devo dire la verità, in realtà ci sono anche altri strumenti, Stefano. C'è un esempio che porto sempre, che mi sembra abbastanza interessante, che è quello di un deputato del Partito Democratico. Speriamo adesso di non violare la par condicio, siamo terrorizzati ogni volta che parliamo di un partito politico, però di un deputato del Partito Democratico che si chiama Alessandro Bratti, che ogni anno redige quello che chiama il suo bilancio sociale, nel quale indica per filo e per segno tutto quello che ha fatto. Quindi non è che è necessaria una live chat settimanale, insomma, si può anche procedere verso. Però va anche considerato che questo consente un monitoraggio ex post, un po' come si faceva una volta con le campagne pubblicitarie quando non esisteva internet, per le quali la rendicontazione del successo di una campagna si poteva avere 2 o 3 mesi dopo che la campagna era finita. Oggi sappiamo tutti che con la rete si ha in tempo reale idea di quello che si sta facendo. Non vedo per quale motivo dover aspettare un anno per avere informazioni, indicazioni su quello che si sta facendo momento per momento. E questo non vuol dire oltretutto un'istantaneità della democrazia, vuol dire semplicemente una continuità di dialogo e di relazione. Però il punto della delega, e giro la domanda a Massimo Mantellini, della delega con la quale insomma consegniamo le chiavi del paese, per così dire, in mano ai nostri deputati, è proprio quello della verifica ex post, se non sbaglio, insomma, almeno a mio giudizio. No, non c'è dubbio. Poi sulla live chat, che io trovo molto curiosa, c'è anche una questione proprio strettamente tecnologica, ed è quella di chiedersi quante persone, io per esempio mai farei una cosa di questo tipo, perché c'è un tale spreco di tempo nel impegnarsi in un'attività di questo tipo. È molto più semplice a questo punto che ci sia una volta alla settimana il post su un blog, e questo diventa tutto molto più fruibile. Questa idea del rapporto proprio di vicinanza legata allo strumento di streaming, secondo me, è una cosa che già di per sé stesso diventa inapplicabile da un punto di vista pratico. Fermo restando che bisogna anche capire quali sono le capacità di rappresentanza, nel senso che chi sono poi i cittadini che vengono a questionare sul mio operato di parlamentare, con quale delega lo fanno, sono quelli che mi hanno eletto oppure sono quelli dell'altro schieramento che vengono a farmi le pulci, cioè, è tutto molto complicato secondo me. Detto questo, la questione della delega, noi abbiamo un problema molto serio, dobbiamo semplicemente trovare persone che capiscano dei temi tecnologici che ci interessano e li portino avanti in Parlamento. Questo ovviamente avviene in maniera graduale in tutti gli schieramenti, perché se noi osserviamo quello che è successo nell'ultimo decennio ci accorgiamo che piano piano si sono affermati tutta una serie di figure di parlamentari che hanno a cuore questi temi. Sono ancora pochi, tutto qua. Ultima domanda che voglio girare invece a Stefano Epifani su questo punto 9, che mi sembra insieme molto interessante da una parte e anche forse discutibile per certi aspetti. Voglio capire come è nato, cioè impegnarsi a garantire che nessun contenuto di carattere informativo possa essere rimosso dallo spazio pubblico telematico o reso inaccessibile in assenza di un ordine dell'autorità giudiziaria. Questo è un punto che nasce dall'esigenza di tutelare la libertà dei singoli rispetto a quella che può essere un'autotutela dei grandi gruppi. Mi spiego, ad oggi non è un caso peraltro che nel servizio precedente o successivo, adesso non so bene, si parlasse della minacciata querela di Grillo a Riotta. Cosa impedisce in questo momento, per evitare che magari il Grillo di turno quereli anche Twitter, cosa impedisce a Twitter di rimuovere il tweet? Ecco, questo rischia di essere un elemento delicato da gestire nel momento in cui i grandi operatori, che sono sostanzialmente i grandi attori, che sono sostanzialmente quelli che danno voce alle persone che sono online, perché è chiaro che nel momento in cui si usano piattaforme sta alla piattaforma avere quella responsabilità tale che consenta all'informazione di essere veicolata, perché Facebook, Twitter non sono, voglio dire, istituzioni pubbliche, sono società private. Cosa impedisce a questi signori di decidere arbitrariamente che qualche contenuto debba essere rimosso? Ora, visto che a volte è molto più comodo rimuovere un contenuto senza dare spiegazioni piuttosto che non affrontare, diciamo così, il contraddittorio che viene da una supposta violazione in questo caso della legge, se non c'è un'autorità giudiziaria che diventa garante, il cittadino, essendo, come dire, un elemento atomico, un nodo piccolo della rete, rischia di mettere in serie difficoltà la sua libertà di opinione. Abbiamo spazio per un'ultima domanda e la gira Massimo Mantellini, ed è sempre su questo tema qua. Tu come la vedi da questo lato, Massimo? Ma il tema sulle piattaforme principali, cioè io sono d'accordissimo su questo punto, non tanto per quello che diceva Epifani adesso, perché in realtà da un punto di vista pratico sia Twitter che Facebook, che sono, diciamo, gli ambienti che noi prendiamo a riferimento, sono largamente al di fuori della giurisdizione italiana per quanto riguarda la capacità di tenere o togliere contenuti. Credo che valga invece in realtà per tutta una serie di progetti di legge che sono stati portati avanti per tutelare alcuni interessi, il principale di questi è quello sulla tutela dei diritti d'autore e sulla pirateria, che molto spesso hanno proposto di saltare il filtro della magistratura per quanto riguarda questi provvedimenti. Già adesso le blacklist che i provider hanno per i siti che non possono essere raggiunti dai cittadini italiani molto spesso esulano da questo principio per cui il magistrato deve comunque avvallare la decisione. Questa secondo me è la ragione principale per cui è utile una norma di questo tipo. Grazie a Massimo Mantellini, blogger, lo trovate anche su Twitter, Mante, altrettanto trovate Stefano Epifani come Stefano Epifani, trovate tracce di loro in rete, quindi basta, come si dice, googolarli e quindi troverete tutto quello che volete su di loro. Un ringraziamento a Roberto Scaltritti in regia, a Laura Fagini in assistenza, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, vi ricordo i nostri contatti, vota Antonio R24 è l'account Twitter della trasmissione, vota Antonio R24 è anche la pagina Facebook, venite a visitarci sul sito www.radio24.it. Una buona giornata da Simone Spezia.